state per raggiungere le nuove frontiere. Paura, Paimo, Octoplus. Livello superiore. Ho compiuto 30 anni, tondo oramai da un po', lo so da mo' che recuperare fondi non fa più per me. Sono incostante ma nonostante ciò, quello che fa per te ce l'ho, vieni da zio Frank. Ciao, come stai? Non ci si vede dai tempi del Big Bang. Parli slang e lo spank, sono un tango e cingoli. Gang su gang, con talento di Wolfgang per i miei singoli. Basta vedere le sere che passo nere, ma nere davvero poco da cavaliere. Tipo al museo delle cere, gli incubi sono sintomi e si evidenziano quando gli stolti pensano e sentenziano. E tu che sei tra i pochi buoni rimasti, ti divincoli. Per questo te ne andasti, per questo non ti licenziano più, per questo aspira agli astri e non a quegli intrepidi atteggiamenti ridicoli. Vidi la luce tra i vicoli mentre lacrime rigavano zigomi liquidi sotto i tuoi piedi, come vedi, per ribaltare te, quello che ti circonda è tutto quello in cui credi. Siediti e chiedimi cos'è che più non c'è, il perché, ma per me non è cambiato davvero un bel nulla, credimi. Forse ora sono più meriti rispetto al 9-3, forse finalmente sarò coperto da crediti e non me ne vedranno come canni. La mia carriera a 40 anni sarà appena iniziata, questa è la mia strada, è giusto che mi osanni. A 40 anni sarà appena iniziata, questa è la mia strada, è giusto che mi osanni. Si infrangono le regole, si scontrano le epoche, le cose si scompongono in molecole, mi puoi trovare oltre le colonne d'Ercole da un po'. Vai mo. Si infrangono le regole, si scontrano le epoche, le cose si scompongono in molecole, mi puoi trovare oltre le colonne d'Ercole da un po'. Vai mo. Questo è il mio contesto e non mi azzani, neanche se ti danni. In un cesso di posto come questo finisci presto su un attaccapanni. Morto mastro e anni, passo di anni a fare danni, tra malanni, affanni e tiranni, aspetto te che mi condanni. Gianni, questo è il mio mood, mirando a sud come Normanni. Sono Robin Hood, da cervo, da feel good, ma non mi inganni. Sono tra quelli traditi, dai tuoi inviti assortiti, alibiti, dai tuoi miti finiti, dividi, assinziti, ridi. Mentre tra canni stecco da fast food, non vorrei essere nei tuoi panni. Esperto tra i più disinibiti, ambiti in più ambiti, agguerriti sopra i campi di battaglia. Qui chi sbaglia, vede fuoco come paglia, legge un po' dietro la mia maglia. Qui si infrangono le regole, si scontrano le epoche, le cose si scompongono in molecole, mi puoi trovare oltre le colonne d'Ercole da un po'. Vai mo. Qui si infrangono le regole, si scontrano le epoche, le cose si scompongono in molecole, mi puoi trovare oltre le colonne d'Ercole da un po'. Vai mo. Amo la musica quanto la verità e parlo di entrambe. E tanto dei tempi di Simba che metto in atto idee strambe. Come Callister e Pelé con la samba, la mia vita non cambia. L'avidità mai avuta in questa partita, la differenza la fanno le gambe. In mezzo al campo sono Rambo, ballo il mambo sopra un jumbo franco. Abituato a distinguersi dal branco, brillo una bomba nell'ombra, rimbombo una tromba, sono stanco. Porta pace nella tomba, una colomba bianca, tengo banco. Cambio lo show dal limbo, porto in grembo un bimbo dal nome Flow. Serva tipo come un dingo, agile come Low. Spingo, conosci la storia del mandingo, gringo. Tienimi sopra un beat di massa che devasta e farai bingo, yes I know. Sai bene che non fingo, mentre c'è chi sembra bingo bongo, non rango tango, manco al banco dei pegni li vogliono più. Ci spegnono e tornano blu, è il segno che sogno e tu, sostegno di questa tribù, 600 gradini più in su. Qui si infrangono le regole, si scontrano le epoche, le cose si scompongono in molecole, mi puoi trovare oltre le colonne d'Ercole da un po'. Vai mo. Qui si infrangono le regole, si scontrano le epoche, le cose si scompongono in molecole, mi puoi trovare oltre le colonne d'Ercole da un po'. Vai mo. Octoplus, Paura 2006, ordine del pariamento, dal collopiede dell'Italia, Napoli provincia. Vai mo, 600 gradini più su, e basta, un livello superiore.